Haydi haydi babo babo den de geliyor de geliyor. Aqui hoje tá babo se tu ir de lá. Oh Zicini, do 10 euro, che ce l'ho donato, sei fala, sei sei famiglia. Ti sto guardando do 10 euro che ce l'ho sboccato, ogni altro sei sei famiglia. Ti sto guardando lì, do 10 euro, che ce l'ho scomico, ogni altro sei sale, sei famiglia. Te lava e penso de te lava e fala la sen visto mica do 10 euro che ce l'ho del cocunato neato e isto che ce l'ho lì si ribana per franesa a isto i fala che ce l'ho prehaio a pap e il vicente visto zedo do 10 euro che ce l'ho neato di palazza dai pe famiglia sa chi no va vai non è nella tua sala va direle o va sala va direle lascia vi va voce o si tiri a ver 10 euro vicino che ce l'ho donato isto samurai do 5 euro che ce l'ho donato per famiglia sa ai desidi pa bardalla. Os de vovô, vovô, de querer lá. Que de nó, que de nó, zemco querer, lerer, zemco querer, lerer. Ah, vi vovô, se lá me te queira, ó, vi me pra lente. I am in so deze, dai e banana ze. Jano vo va vo, se la mi kerela, akatari no na, e do chavi, o vo vo vo. Corano, do 10 euro, che ce l'ho scoccato con neato, hai te lo famiglia. Te non mi sta ravando me. Ai nai mese, con la ciccia mese, o non è o vamo. E a malare zacci, o zeno, do spettano 10 euro. Samo ešte v čete se ti ostal. Vine dva ti familia, gilam, gilam, gilam, gilam, gilam, gilam. Eme sore se, dai dai vese, dai dai vese, orale. Chavo, che lo frai, o se non cuco il Vicente, a Socelon, visto le si famiglia. Se da mi girena, ai bananase, amare fralese, oh, se lo famiglia. A cataro da dite, a griti fralà. Credi famiglia bene, somma che non... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Idemo sempre, idemo frate, zafali! E a se va voce ne ha testa, idemo vabbò! Ja sa zili. Salvatore, a Milano, che papà, dale!